2 etti di prosciutto, olio, pane, totale 10 euro con scontrino fiscale. Peccato che lo scontrino non valesse nulla perché il supermercato lo azzerava regolarmente. È accaduto a Bergamo. In pratica, per ogni acquisto, i clienti passando alla cassa ricevevano un documento fiscale che sembrava a tutti gli effetti regolare, ma gli scontrini erano immediatamente annullati, approfittando delle specifiche funzioni per la correzione degli errori, come spiega il colonnello Giovanni De Roma. Il registratore di cassa regolarmente permette la funzione di annullamento allorquando viene commesso un errore, quindi viene digitato un importo per errore, anziché magari scrivere 1000, scrivo 10.000, c'è una funzione che permette di annullarlo e quindi lo scontrino viene annullato, ma dovrebbe essere riemesso quello regolare. Nel caso in specie praticamente gli scontrini regolari non venivano emessi e alla parte veniva lasciato quello che era stato annullato, che non aveva nessun valore dal punto di vista fiscale perché non poteva essere riportato poi alla fine tra i corrispettivi riscossi. Considera che in 5 anni con questo sistema sono stati sottratti quasi 500.000 di euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.